Associo una parola, un aggettivo, un nome, un verbo al termine violenza. Ignoranza. Associo un oggetto al termine violenza. Il primo che ti viene. No, non mi viene nessun oggetto in mente. C'è differenza tra uomini e donne? Ah, no. Quindi un uomo è uguale a una donna. In Ah, sì. cosa un uomo e una donna sono diversi? Ti Ah, il corpo. senti uomo, donna o altro? Non lo so. Associa un aggettivo al termine uomo e uno a donna. Il primo che ti viene in mente. Ah, uomo potenza, donna leggiadria, ma semplicemente perché mi è stato inculcato questo. Pensi che sia possibile un giorno che tu sia esattamente il contrario di quello che pensi, quindi donna o altro, uomo? Sì? Ti spaventa? Ti No. sei mai sentito vulnerabile in quanto uomo? Ma in quanto uomo, no. Vulnerabile sì in generale, ma in quanto perché per il fatto che sono uomo, no? Cioè uomo come inteso come animale o come cioè, no, indifferentemente con tutti e due i casi, no? Immagina uno spazio e immagina un corpo. Cosa ti suscita l'idea di vedere un corpo nudo? Ritorniamo alla risposta precedente. Innanzitutto quando tu hai detto che immagino uno spazio, immagino un corpo, e poi hai detto subito dopo un corpo nudo, mi è subito venuto in mente il corpo nudo di una ragazza nello spazio, il che, prendendo la risposta data precedentemente, mi fa venire in mente leggiadria. Quindi se fosse un corpo di donna o un corpo di uomo, per te sarebbe la stessa cosa, la sensazione? Probabilmente Cosa? fosse un corpo di uomo mi darebbe sensazione di potenza. Cosa ti fa arrabbiare? O chi ti fa arrabbiare? Mi fa arrabbiare la non comprensione, cioè nel senso no, non la non comprensione, il fatto che io non comprendo. Un'altra, ecco, il giudizio nato dalla non comprensione. Cioè, nel senso che io non comprendo l'altro e quindi lo giudico. E cosa fai quando sei arrabbiato? Dipende. Dipende dalla rabbia che c'è. Cioè, la rabbia ha varie sfaccettature. Potrebbe essere una rabbia impulsiva e allora a quel punto esplodo, potrebbe essere una rabbia che monta e a quel punto preferisco mettermi in disparte. Quindi quando sale la rabbia, ti metti in disparte e quando Se esplode, cosa fai? mi accorgo che mi sto arrabbiando, preferisco non. Se mi accorgo che mi sto arrabbiando, quindi mi accorgo, mi rendo conto che mi sto arrabbiando, tendenzialmente. Evito di dare sfogo alla mia rabbia. Ah, E quando sfoga, cosa succede? Cosa fai? divento violento. Cosa fai? Sbatto porte o sei anche capace di diventare violento con le mani. Tendenzialmente, per fortuna, capita molto poco, molte poche Hai mai paura? Di sì? cosa? Di Ma la paura più ricorrente è quella dell'altezza, però no, paura di non capirmi, di non capire cosa voglio per me stesso. cosa fai quando hai paura? Quando hai fortemente paura? Rimango calmo, cioè tento di rimanere calmo. E quando non ci riesci? Ci devo riuscire. Hai mai subito violenze o soprusi? Di Sì? che tipo? Sessuali. Quante volte? Non lo so. Tante. Dove e perché ti ricordi? Appena detto dove, mi è venuta in mente una parte del corpo, poi solo dopo ho inteso la tua domanda e ho pensato dove come contesto spaziale dello spazio. A casa mia, poi oltre dove, qual era l'altra domanda? Dove Perché? perché? Perché un'altra persona ha abusato di me. E come ti sei sentito? Ero piccolo, non capivo. Con una parola o con poche parole, qual è secondo te il confine della persona? C'è è presto detto, c'è una banalità. Che mi sono, cioè, proprio una frase banale che tutti conoscono e che però mi piace ripetermi, è che alla fine la libertà di una persona inizia quando, cioè, finisce quando inizia quella dell'altra. Quindi, se il confine di una persona è quando incontri il confine dell'altra che sta di fronte, e mediare questo confine è il gioco della vita. Cosa ti fa sentire protetta e sicura? Stare solo. Quando senti necessario un abbraccio? Mai.